Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 7 maggio 2015. Agro Housing. È cinese il primo palazzo con l'orto pertinenziale. È stato inaugurato in questi giorni, come previsto, Agro Housing, il palazzo progettato dai CNAFO Climor Architects per la città di Wuhan in Cina, che ha vinto nel 2007 l'International Architecture Competition for Sustainable Housing. Il palazzo integra in modo innovativo la vita urbana e rurale. Si tratta di uno spazio verticale in cui ogni appartamento è dotato di una serra di pertinenza che permette agli abitanti di coltivare parte dei propri alimenti. La realizzazione si propone come risposta modello all'inurbamento crescente della popolazione e ai rischi che derivano dallo spopolamento delle campagne. La soluzione potrebbe essere riproposta altrove, anche perché sfrutta l'energia solare e recupera le acque grigie per l'irrigazione. Innovative anche le tecniche di recupero dell'energia e di riduzione dei consumi. Fin qui la notizia del 7 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Agrohousing è un modello da imitare? L'opinione del professor Giorgio Prosdolcimi Gianquinto, che insegna orticoltura all'Università di Bologna e coordina diversi progetti di agricoltura urbana. È un sistema di produzione che è sicuramente valido per quanto riguarda certi tipi di colture. Per esempio, per quanto riguarda la produzione degli ortaggi, ecco che allora una superficie di questo tipo, soprattutto se protetta, se è paragonabile a una serra come nel caso specifico di questo progetto agrohousing cinese, con una superficie del genere in un ambiente protetto si può ottenere una qualità sufficiente di alimenti. Certo, il discorso cambia se si fa riferimento a altre produzioni, che ne so, il grano per produrre la farina e fare il pane, chiaramente non è compatibile con un tipo di produzione di questo tipo. Questo è uno dei tanti progetti che ci sono in questi ultimi anni riguardo alla produzione agricola in città, quindi all'agricoltura urbana. I primi progetti sono stati fatti negli Stati Uniti e in Canada, principalmente da un gruppo di ricercatori a cui fa capo il Dixon Despomier, che è un microbiologo di fatto. È stato lui il primo a coniare anche il termine di vertical farming e di intravedere, diciamo, questi edifici dedicati alla produzione agricola in città. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.